Buonasera a tutti, sono le ore 19, siamo in diretta con Elia Media da Piazza Puntoni, in streaming su eliamedia.org e su Radio Kairos 105.85. Ospiti per stasera, seconda puntata dei ragazzi del 77, ospiti super benvoluti, Maurizio Marinelli e Oderso Rubini. Ciao. Buonasera, ciao. Allora, brevissima presentazione. Maurizio Marinelli, presidente e direttore editoriale di Baskerville. Oderso Rubini, per tutti Oderso, di Italian Records, giusto? Allora, un accennino veloce al brano che abbiamo messo in apertura, che è un pezzo dei Chrome, che si chiama Eyes on Mars, da Red Exposure del 1980. È un omaggio musicale all'attività di Oderso perché mi raccontava nell'intervista che abbiamo fatto che durante il Festival Electra 1 del 1980, festival organizzato anche da lui, erano ospiti i Chrome insieme a molti altri. Sì, e poi questo disco è stato anche ristampato da noi in Italia, ovviamente. Meglio di così. Allora, oggi siamo qui per parlare di un argomento specifico del 77, ossia di come la Bologna creativa di quegli anni ha partorito delle menti creative che hanno partorito dei progetti collettivi che vanno avanti ancora oggi. Allora, siccome Maurizio ci lascerà un po' prima delle 20, vorrei chiedere a lui intanto di raccontarci qualcosa a questo proposito e a proposito di Baskerville. Baskerville è il risultato di un progetto di amicizie fatte al DAMS e che ha scommesso sulla possibilità che un progetto di questo genere potesse durare. In realtà ci eravamo detti che sarebbe durato per il tempo in cui saremmo riusciti a vederci ancora, no? Nei nostri trasferimenti e nei percorsi della nostra vita quotidiana. E in realtà è durato fino a oggi, dal 1986. Nell'86 Pier Vittorio Tondelli, io e altri due amici, Mario e Maurizio Petta, abbiamo deciso di costruire una casa editrice perché eravamo al termine del nostro ciclo di studenti del DAMS, eravamo laureati. Questo ci ha fatto capire che se non avessimo inventato qualche cosa che ci potesse tenere uniti e che potesse permetterci di continuare a occuparci di comunicazione, di arte, delle cose di cui ci occupavamo al DAMS, e avremmo finito per fare solo il nostro lavoro, ci saremmo concentrati nelle nostre professioni, avremmo scelto di costruire la nostra, come dire, vita privata come castello difeso delle nostre emozioni, delle nostre volontà, delle nostre prospettive, ma che tutto sarebbe rimasto legato a ciò che avevamo studiato e imparato durante il periodo del DAMS. E la costruzione della Baskerville nacque per questo, sostanzialmente per questo. Prima abbiamo cominciato a fare dei piccoli libri di affezione, libri di poesia e di narrativa. Uno di questi libri, per esempio, coinvolge anche Oderso perché è la sceneggiatura di un film che in parte abbiamo anche girato assieme a Fric Antoni, assieme a Gianni Celati e a Maurizio Magri sui tetti di Bologna. Si chiama La banda dei tre clandestini ed è la sceneggiatura scritta da Gianni Celati sulla base delle comiche americane del cinema muto. Circa un quarto d'ora, più o meno 15-20 minuti, sono in mano di Oderso perché ha tenuto il materiale che è stato girato. No, in realtà non è che io l'ho tenuto, mi è arrivato casualmente assieme ad altro materiale. Io all'inizio non capivo di che cosa si trattava. È stato quando ci siamo incontrati io e te che tu mi hai accennato questa cosa. Allora mi si è accesa la lampadina e ho detto: ma guarda, che io quel materiale ce l'ho. Da qualche parte c'è. E dopo te l'ho dato. No, è formidabile perché ci siamo tutti rappresenta bene lo spirito di quei tempi in cui si giocava seriamente, si facevano le cose divertenti ma seriamente, e questo consentiva di sviluppare la capacità produttiva della creatività, svincolata dagli obiettivi economici, no? E di marketing e aziendali, ma centrata sulla capacità di essere innovativi, di divertirci e di creare qualcosa che ci soddisfacesse direttamente. E la Basker è un po' la stessa cosa. Noi abbiamo deciso subito che avremmo fatto dei libri che piacevano a noi, non volevamo comitati editoriali, non volevamo sponsor o professori dell'università che ci avrebbero fatto da copertura e da protezione anche. E la cosa è andata avanti per un po', poi nel 93 abbiamo fondato una nuova collana che si chiama Biblioteca di Scienze della Comunicazione, che poi ha fatto partire la casa editrice e per diventare, a quei tempi i libri di Scienze della Comunicazione erano sparsi nelle collane di sociologia degli editori italiani, e noi siamo stati la prima casa editrice che ha fondato una biblioteca specificamente dedicata alla comunicazione. E questo è certamente il risultato di quello spirito, perché non ci siamo mai posti il problema di superare questo aspetto del coinvolgimento tra di noi, dei soci, dei fondatori, e la volontà di rendere il nostro lavoro prima di tutto piacevole per noi, divertente per noi e capace di consentirci di esprimere le nostre idee, le nostre volontà attraverso un'operazione che poi fino adesso si è sempre ripagata, quindi ha garantito anche la copertura dei costi e la sua continuità. Beh, da questo punto di vista sicuramente, anche per quello che riguarda la parte sulla quale ho lavorato io, che è stata quella musicale, le caratteristiche erano più o meno identiche, sono state più o meno identiche, nel senso che anche per noi, e forse questa è stata la nostra fortuna, era fondamentale fare quello che ci piaceva e non fare quello che, tra virgolette, il mercato chiedeva, come invece normalmente nell'industria discografica succede, nel senso che se tu andavi a parlare in quegli anni con le grosse case discografiche, la richiesta era sempre legata al fatto che tu dovevi fare qualcosa che assomigliava a qualcos'altro che aveva avuto già molto successo. Esatto. E questa era una roba che noi proprio non ne volevamo sapere, abbiamo rifiutato, e quindi anche per noi era fondamentale divertirci noi prima di tutti gli altri, perché eravamo convinti che in questo modo quello che facevamo sarebbe arrivato più facilmente, in maniera molto più profonda. La storia ha un epilogo, perché due anni fa abbiamo fatto insieme, noi, io con Baskervi e lui, abbiamo fatto insieme il libro sul treno di John Cage, che nell'occasione della riedizione del progetto del treno di John Cage abbiamo pubblicato un libro che contiene tutte le fotografie, riflessioni critiche, racconti, testimonianze e tre CD e un DVD che contiene tutto il materiale che siamo riusciti a raccogliere su quella bellissima esperienza del 78, e questo ha sancito il riattraversamento tra noi due. Una bella collaborazione. Sì. Sì, sì, poi per me personalmente, ovviamente, che al treno di John Cage ho partecipato in maniera attiva, direttamente, collaborando per la realizzazione di alcune delle parti della cosa che si stava organizzando, è stata un'esperienza da un certo punto di vista fondamentale, perché la roba lì è venuta nel 78. Noi avevamo da poco iniziato questa nostra attività imprenditoriale, perché dopo il 77, anzi verso la fine del 77, il problema che noi ci siamo posti era: ma noi non abbiamo voglia di andare a fare un lavoro in ufficio, in fabbrica, roba di questo genere, quindi proviamo a inventarci qualcosa per fare un lavoro nostro che piaccia a noi, che ci diverta. E in quest'ambito era nata la collaborazione, appunto, per fare questo progetto, ma trovarcisi dentro, lavorarci, vivere per un certo periodo con Cage, capire quella che era la sua filosofia, il suo modo di essere, tutta l'arte, la grande arte che aveva portato in giro per il mondo, dal mio punto di vista è stato estremamente importante, perché, come è successo per altre persone che nel libro che citava Maurizio poi hanno avuto comunque hanno dato dei contributi o scritti o fotografici, è stata un'esperienza che ad alcune persone in qualche modo ha cambiato veramente la vita, perché gli ha fatto capire che si potevano affrontare le cose in un modo completamente diverso, slegato da quelli che erano i canoni tradizionali, e quindi per questo è stato estremamente importante. Vorrei dire che qualche settimana fa è successa una cosa che ha risvegliato quegli elementi di anti-marketing che hanno queste idee che noi abbiamo descritto, che sostanzialmente significa: se tu puoi, se sei molto bravo e se ci metti dell'impegno e della passione, puoi fare qualcosa che piace a te e troverai certamente nel mondo, ma anche nelle aree più limitate, qualcuno che ha la tua stessa sensibilità e che apprezzerà quello che fai. Lo ha detto con molta più autorevolezza di noi Steve Jobs, no? Che ha detto: ma perché io devo fare le ricerche di mercato per chiedere agli utenti che cosa vorrebbero? Loro hanno il panorama di quello che c'è, di quello che esiste, quindi non possono aiutarmi a progettare qualcosa che non c'è ancora ma che potrà essere loro utile. È un'idea anti ricerche di mercato, cioè è una idea che è alla base di quella cultura che nel 77, che a Bologna, che nel quel periodo di creatività che era anche in grado di produrre dei risultati, dei progetti che poi piacevano ai nostri amici, quelli che avevano la nostra stessa sensibilità, ha la stessa matrice. Ed è la matrice che negli Stati Uniti, nella Silicon Valley, dagli anni 70, alla fine degli anni 70, ha prodotto la Silicon Valley, ha prodotto la creatività, lo spirito collaborativo e la creatività che ha generato aziende come la Apple, come Google, come molte altre. In Italia no, perché in Italia abbiamo un contesto politico, sociale ed economico disastroso in cui le buone idee non vengono finanziate. Se noi ci siamo riusciti, probabilmente è perché noi siamo rimasti piccoli, ma non contiamo nulla, non abbiamo nessuna forza contrattuale nei confronti della distribuzione, per esempio, che ci stringe al collo, oppure nel grande sistema della produzione dell'industria culturale. Negli Stati Uniti questo è stato possibile perché c'era un contesto economico, anche finanziario, che era capace di valorizzare le buone idee. Però la matrice è la stessa, la matrice degli anni 70 è la stessa. Spirito collaborativo, passione, amore per quello che si fa e consapevolezza che se fai qualcosa che piace a te, altre 200 persone a cui piacerà ci sono di sicuro. Sì, questo è sicuramente un concetto che la rete, internet, certo, aiuta moltissimo a diffondere anche in contesti o in paesi come il nostro in cui certe idee, la comunicazione non ha un peso ancora, certo, così per esempio così il libro di John Cage, attraverso la rete, noi lo vendiamo di più in Giappone e negli Stati Uniti che in Italia. E questo ci produce un effetto di ritorno che solamente il mercato italiano e senza la rete non riusciremo ad ottenere. A proposito sempre di questo fucina creativa che era Bologna negli anni 70 e alla fine degli anni 70. Alla fine degli anni 70 e che Maurizio ha paragonato alla Silicon Valley, mettiamo un pezzo che poi Oderso ci commenterà. We'll be right back.